collettiva. Io la domanda che vi farei è, stiamo iniziando a registrare adesso, la domanda che vi farei è, voi in che modo state percependo le piazze di quest'anno che mi sembrano abbastanza strane, vabbè, innanzitutto dovuta alla situazione di pandemia, ma in che modo state percependo la rabbia e in che modo vorreste... Nel vostro dove operate, e in che modo vedete che questa rabbia si può convogliare verso una programmaticità? Noi facciamo tutti più o meno parte di realtà di movimento e la domanda è sempre la stessa: è possibile che dalla realtà di movimento si passi a qualcosa di un po' più sistematico? Vi chiedo di raccontarmi innanzitutto nel vostro che percezione avete di questo momento e che percezione avete dello sconforto di questo momento. Dai tu parola. Prego, chi vuole? Potete darci voi, visto che non siamo nella stessa stanza, ci potete dare voi parola perché è un po' più Prego, difficile. iniziate voi, iniziate voi. Pari o dispari, Facciamo, inizio. voi non lo vedete, però noi facciamo pari o dispari. Io, beh, vai, poi. Non abbiamo detto che No. inizia tu. Va bene, inizio. Ci siamo dimenticati di dire cosa era pari o dispari. Non Comunque è siamo uscito manco dispari, buoni a 7. fare pari e Vabbè. dispari. Allora, noi come sapete abbiamo un po' passato una pandemia particolare perché proprio il 4 di marzo c'è stata l'operazione di Salvatore. Abbiamo fatto la nostra lotta anche in altri modi. Quindi devo dire che personalmente abbiamo fatto un vero e proprio un lockdown che ci è anche servito e non siamo stati molto fisicamente nelle piazze, abbiamo avuto delle esperienze mediate, siamo stati fino a fine di aprile, poi siamo venuti qui a Trento. Abbiamo ricevuto anche degli inviti, abbiamo guardato molto, quindi è anche peculiare, particolare, molto interessante fare esperienza di fenomeni sociali di cui di solito si fa o si fa con il corpo. Quindi io inizio diciamo così, da questa esperienza mediata il mio desiderio e la mia sensazione, forse entro quasi direttamente nel vivo della puntata, sarebbe stata vedere fare di questi limiti. Di questi limiti anche stanziati, eccetera, eccetera, un'occasione per reinventare le forme delle manifestazioni e delle proteste che ho sognato tantissimo, anche non essendoci stata lì. Ho pensato che c'è e ci sarebbe stato un lavoro straordinario per i ballerini, i coreografi, gli artisti del digitale per inserirsi in spazio a persone che magari di movimento non sono, perché sicuramente la voglia di stare fuori, banalmente di respirare all'aria aperta passa nel corpo e nella mente di tutti, non solo di quelli di movimento. Per esempio, mia madre, che al contrario di me è molto cattolica, insomma, ha una sua vita religiosa, in questi periodi stanno iniziando a fare delle messe, dei ritrovi religiosi nei parchi. E questa mi ha trovata una strana forma, proprio per riuscire, perché per i fedeli, insomma, è necessario vedersi, in campetti di calcio, in luoghi peculiari della città che per la messa non sono, ma per poter stare all'aria aperta anche in modi differenti. Per esempio, hanno iniziato a fare questi riti dispersi nella città e questo l'ho trovato molto interessante. E io a questa cosa aggiungo soltanto una considerazione, è che è il fatto possono e devono avvenire a tanti livelli, no? Per esempio, se come nel caso di Black Lives Matter c'è stato anche un giusto e sacrosanto voglia di scendere anche violentemente, no? Per provare anche direttamente questo senso di rivalsa e di protesta. Quindi, se da una certa, da una prima, da un primo punto di vista è necessario sfogare, no? Perché anche quello serve tantissimo, è da un necessario anche pianificare, no? Ecco, non voglio monopolizzare, ma magari faccio un paio di giri, però per noi, per esempio, visto che c'era anche questa condizione, no, della malattia, della mia operazione, di tutto quello che ne è conseguito, per esempio, è stato molto un momento di pianificazione. Certo, assolutamente. Poi torniamo su questo, in generale su anche la cura. Volevo sentire anche Luca, magari prima, e poi Ross, sempre sul tema di come vedete, insomma, quello che sta succedendo a livello di movimento e come secondo voi ci si può evolvere, ecco. O se si deve, non voglio dettare. Va bene, ciao a tutti e a tutte. Non so, magari comincio raccontando brevemente anche come l'ho vissuta io la Assolutamente. fase del lockdown. Per esempio, noi a Napoli abbiamo, diciamo, ci siamo trovati subito nella situazione di capire, aiutare le persone che vivono, diciamo, nei quartieri, nelle reti sociali di prossimità dove facciamo attività sociale e politica, a sostenersi proprio a partire dai bisogni, dall'esigenza proprio del cibo. Quindi abbiamo organizzato delle reti, diciamo, di distribuzione di beni alimentari. E in secondo ho cercato di supportare le persone dandogli assistenza per presentare le domande per ottenere i sussidi che sia il governo nazionale che quello regionale hanno sbloccato, diciamo, per supportare la fascia di persone che si è trovata da un giorno all'altro senza assolutamente nessuna forma di sostentamento e di reddito. E quello, diciamo, dicendolo con una battuta, quello che è stato chiaro è che, diciamo, la crisi sanitaria si è immediatamente intersecata con una situazione, diciamo, di crisi sociale che ancora, a mio avviso, deve manifestare i suoi effetti più pesanti, perché in questo momento, per esempio, le aziende private beneficiano ancora sono vincolate a non effettuare i licenziamenti, ma quando scadranno i vincoli a settembre, purtroppo, diciamo, sono quasi tutti concordi nel ritenere che ci sarà un'ondata di licenziamenti e quindi sommerà, diciamo, la situazione già grave in alcuni territori. Poi diciamo, ci sono alcune situazioni molto problematiche. Non so se avete avuto modo, diciamo, di seguire quello che sta succedendo a Mondragone, che è un comune che sta, diciamo, a poche decine di chilometri da Napoli, nella provincia di Caserta, sul litorale Domizio, dove c'è una situazione molto, diciamo, molto di tensione, a dire la verità, alimentata anche da una cattiva informazione fatta dai giornali, dai telegiornali, su questa zona rossa istituita attorno a delle palazzine dove vivono centinaia di persone di diverse nazionalità e che in questo momento, diciamo, è isolata e presa, diciamo, allo stesso tempo sia dalla reazione di queste persone che non vogliono rimanere chiuse e dimenticate, diciamo, in una condizione già difficile al di là del blocco, e dei residenti attorno che in qualche modo, diciamo, si filippocco si possa estendere anche ad altre zone della città. Tutto questo, diciamo, condito da, ovviamente, da tentativi di strumentalizzazione in chiave razzista nei confronti di queste persone, appunto, di diverse nazionalità. C'è una importante comunità bulgara che vive dentro questo rione, e quindi potete immaginare un po' anche la difficoltà. Quindi per dire, c'è un clima di effervescenza, e questo è un fatto sempre positivo, perché anche se si manifesta in forme scomposte, non lineari, è comunque un segno che c'è un bisogno, un desiderio delle persone di reagire, di creare, diciamo, le condizioni per dare delle risposte a delle urgenze sul piano sociale. Ieri a Napoli c'è stata una manifestazione molto bella dei genitori, degli insegnanti e degli studenti delle scuole, dalle scuole, diciamo, dalle scuole primarie fino alle scuole secondarie di secondo grado, che prendeva parola proprio su questo, sul pericolo che, diciamo, la didattica a distanza sta assumendo proprio per la funzione della scuola e per, diciamo, gli interventi urgenti che invece da parte del governo non ci sono. Quindi sta scomposto, questo è buono, però sì, è chiaramente il discorso che faceva Salvatore prima del passaggio alla pianificazione, qui sembra un grande punto interrogativo al momento. Vi faccio una domanda, sentiamo anche Ross, cioè, vorrei interpellare su questa cosa, ma secondo te come mai questa situazione... Secondo voi, poi intanto tu, poi voi, questa situazione non si riesce a sbloccare, nel senso di... Mi sembra di avere tanti puntini separati, di tante lotte separate, e si fa fatica a trovare una rete tra queste lotte. Quindi intanto sentiamo tu come te la sei vissuta, e poi vorrei capire da voi che tipo di ragionamento può esserci dietro all'unione magari eventuale, soprattutto in un momento in cui ci siamo sentiti particolarmente uniti di diverse istanze che però hanno tutte quante una fonte comune. Vai, Ross. Guarda, me la sono vissuta, diciamo, prevalentemente osservando quello che accadeva, e ne approfitto per andare subito, diciamo, a una delle cose che mi ha più colpito in assoluto e che forse ha anche un po' male, che meno ci interessa, diciamo, noi qui che siamo collegati, rispetto alle lotte, appunto, in generale, tantissimo in questo periodo l'articolo di Bifo, senza citare quel dibattito che ha stimolato, che ha messo proprio l'attenzione sul Tenny, dandogli un po' anche assolutamente in modo provocatorio, no, dei falliti, dicendo che, diciamo, la loro grande battaglia in fondo è stata per uscire poi a farsi la birretta degli amici, e che il loro modo per prendersi cura dei propri cari in realtà in questo periodo è stato quello di rinunciare al proprio corpo, alle proprie pulsioni, a fare l'amore, a fare... E dice, a noi negli anni 70, diciamo, la prima cosa di cui avremmo approfittato di costrizione sarebbe stata quella di uscire di casa, di fare un grande ciao alla nostra famiglia, diciamo, buttarci tutti insieme in esperienze collettive, prevalentemente, diciamo, sperimentando nel privato, no? Diciamo, forme diverse dello stare insieme, ma non privandoci sicuramente dell'esperienza del corpo e dello stare insieme. E diciamo, in qualche modo, diciamo, questa cosa mi ha profondamente colpito, diciamo, uno degli aspetti, perché mi ha risuonato in qualche modo la nostra incapacità, no, di sentire una pulsione così forte di incontrarci tutti collettivamente, mm-hmm, e di trovare delle soluzioni anche nelle forme della lotta, un po' come diceva all'inizio Oriana, no? Di rimmaginare insieme in un certo senso delle forme anche di lotta, no? Mm-hmm. E allo stesso tempo, diciamo, sempre da un punto di vista un po', tra virgolette, no, dell'analisi di quello che è successo, come dire, il concetto della cura un po' si è tradotto immediatamente, ma forse è quello che succede già da un po', no? Da parte, diciamo, delle realtà di movimento, in una sostituzione totale, o comunque di un supporto importante al terzo settore, cioè questa idea, no, di lavorare sui servizi prevalentemente, di mettere delle pezze, e quindi in qualche modo da un lato mancasse veramente un'immaginazione che deriva anche un po' da questa frammentazione, da questa iperlocalizzazione, no, delle esperienze o dell'agire. E quindi ho pensato molto in questo periodo anche a quello che un po' manca, ma non da un punto di vista solo di strumenti, no? O non perché aspiro ai grandi coordinamenti, però ho pensato che in qualche modo è molto difficile, soprattutto per chi non fa già parte di alcune reti, connettersi, no, con dei mondi di movimento in una chiave sicuramente più, che ha aspirazioni anche un po' più, oltre che banalmente, no, di gestione appunto di queste emergenze, di supporto che ho detto banalmente, ma non per, come dire, è come se si lavorasse sempre molto sul bisogno, e questa è la grande fatica che, sì, sull'immediato. Che si continui a fare, no? Visto che parliamo di programmazione, un po' mi è mancato un indie media, no? Mi è mancato un megafono, un richiamo più a questioni di carattere più generale, no? Mm-hmm. E che appunto sia da un punto di vista territoriale, sia da un punto di vista di rimmaginare la società, su temi un po' più, in qualche modo, come se non ci fosse più nessun forum veramente, no, deputato a farlo, ma questo non per incupire la conversazione, però è evidente che tu, quando poi si passa dalla dimensione, del bisogno, dei servizi, del welfare dal basso, a forme appunto di cura collettiva legate all'arte, allo spettacolo, a mondi più a cavallo tra la progettazione sociale e culturale e una rappresentanza o dei mondi più istituzionali che in qualche modo vogliono delle stanze, immagino che non è solo di trasmissione, ma evidentemente c'è anche un problema proprio di entità della pressione, forse, no? In questo momento forse c'è un tema proprio forse organizzativo grande e generale, ecco. Allora Ross, hai toccato tanti punti, cioè in realtà sono stati aperti tantissimi punti, e nel mentre io mi stavo facendo dei viaggioni miei e butto lì altre cose sul tavolo, e poi magari sento subito su questo lo stesso giro, quindi Oriana, Salvatore, può essere che, cioè tu hai aperto, Ross, un paio di porte secondo me molto, molto importanti. Uno è tutto il mondo della cultura, poi dopo quello lo lasciamo un attimo da parte, però quello che mi interessava, che ha detto anche Virginia, velocemente, è rispondere ai bisogni nell'immediato, cioè la dimensione del tempo che va anche un po' di pari passo con la dimensione della cura, secondo me, cioè mia personale opinione, poi dopo appunto nello specifico su questo mi aspetto una risposta da Salvatore e Oriana, profonda, non voglio gettarvi tante aspettative, non voglio caricarvi appunto di aspettative di troppo peso, ma me l'aspetto da voi. E non è che appunto una cosa che manca anche è veramente il tempo di proprio di organizzarsi e per farlo e per creare comunità, come tutti e quattro sappiamo, cioè quattro anche se siamo in sei, come tutti e sei sappiamo, non sono delle cose. Io non sono iper fan dell'organizzazione forzata, cioè per me una comunità, una consapevolezza nasce anche, cioè deve nascere in maniera spontanea, naturale, cioè quindi seguendo un iter organico e farlo pensando prima alla cura di chi fa parte di queste comunità, perché altrimenti nasce da un qualcosa che è malato, adesso fatemi passare, cioè passatemi un attimo il termine, però che è corrotto in qualche modo, cioè corrotto inteso non corruzione dando il denaro, ma corrotto inteso di, cioè come un file corrotto, quindi insomma con qualcosa che non è forte, ecco, non poggia su una base forte, proprio a livello umano dico. Quindi butto dentro anche questo, cioè se io stavo ragionando adesso cioè fra me e me, se diciamo sul macro tema, appunto quello di passare dalla rabbia che è istintiva, che è naturale, quindi non ha neanche troppo bisogno di tempo per trovare una sua operatività, quindi appena tu c'hai questo istinto, boom, ti butti nelle piazze e lo fai, però quello che invece occorre all'organizzazione è invece il tempo, e quindi magari anch'io stesso ponendomi questa domanda e essendo quasi frustrato dal dire cazzo, ma com'è possibile che adesso che invece bisogna organizzarsi siamo un po' sfaldati, forse è anche una condizione naturale, questa qua prima domanda, mi fermo qua perché poi tutti gli altri pezzi sono da approfondire, ma ovviamente diciamo è una cosa un po' sistemica da sistemare, quindi sistemica da sistemare, diciamo sistemica a cui porre rimedio, quindi è chiaro che i problemi sono sistemici e vanno da insomma alternative di governo o comunque alternative dall'alto che io non vedo a comunque una stratificazione di magari mala gestione appunto culturale anche lascia un po' anche campo aperto dal punto di vista dell'opinione pubblica critica, quindi insomma tutte queste cose qua se le approfondiamo tutte non finiamo più, però magari mi terrei appunto per lanciare la palla a Oriana Salvatore sulla dimensione del tempo e della cura rispetto all'organizzarsi. Cosa ne dite? Ne diciamo che è un discorso ovviamente molto complesso, no? Perché se da un certo punto di vista, che fosse vero o no, eravamo tutti convinti fino a un certo tempo che il nemico, tra virgolettissime, no? Molto chiaro da identificare, la famiglia, il padrone, lo Stato, eccetera, eccetera, no? E diversi gruppi l'hanno inteso in diversi modi, il patriarcato, no? Ora, sempre tra virgolettissime, qual è il nemico, no? E il nemico, che ci piaccia o meno, che ci faccia comodo o meno, siamo noi stessi, no? In questa fase della nostra esistenza, no? Perché il nemico è nella nostra stessa psicologia, no? Che è sotto attacco da tutte le parti, no? E l'algoritmo e l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale, per come è usata in maniera estrattiva, è forse l'elemento più calzante, più evidente, no? Parto sempre da là, no? Dal calarmi in questo momento storico, no? L'intelligenza artificiale fa solo una cosa, classifica, no? Che letteralmente vuol dire rende classe, no? Non so se ci avete mai pensato, no? Classifica vuol dire rendere classe, no? E però rende classe in un modo molto particolare, no? Perché a giudicare dai nostri dati, no? Ognuno produce i propri dati, lascia le proprie tracce digitali, ognuno di noi appartiene a centinaia se non migliaia di classi diverse, no? Quindi non è più una condizione in cui c'è la borghesia, il padrone e il proletariato. Ognuno di noi appartiene a centinaia di classi differenti, no? E oltretutto ognuno di noi non le può manco vedere queste classi, no? Perché sono nella black box dell'algoritmo, no? E quindi in questo modo ci viene oltretutto rubato lo sguardo, no? La capacità di vedere, no? Di riconoscere noi stessi come appartenenti a una classe e anche gli altri, no? Perché se io non so che sono la classe FKZ nel cervello di un'intelligenza artificiale, come posso saperlo di qualcun altro, no? E questo è un discorso molto importante, no? Perché se non posso riconoscere anche gli altri, il riconoscere è il base della relazione, dell'empatia, no? Quindi non posso neanche empatizzare, no? Stabilire una relazione con gli altri. Da questo punto di vista, per adesso siamo praticamente fottuti. È una situazione gravissima se ci pensate, no? Sì. Perché proprio ci viene rubato lo sguardo, no? È rubata la possibilità di riconoscerci, no? E quindi siamo chiusi in questo mondo che ci assomiglia sempre di più e diventiamo anche più intolleranti, più polarizzati. Meno capaci di amicizia, solidarietà, no? E quindi questo da dove si rinizia? Si rinizia è una domanda molto complessa. Noi per esempio stiamo cercando di ricominciare proprio da questa dimensione perché ci sembra la dimensione più caratterizzante, no, della nostra epoca attuale. Per esempio, noi lo stiamo facendo reinventandoci il nostro piccolo centro di ricerca. Non so se magari qualcuno di voi ha visto anche questo processo che sta iniziando. Quindi ci stiamo reinventando Hershey Loves Data, che è il nostro piccolo centro di ricerca, proprio in questo senso. Come fatto un centro di ricerca in cui non viga questa logica della separazione, no? In cui i ricercatori non stiano chiusi dentro il loro laboratorio ad estrarre dati dai comportamenti delle persone e a elaborarli e a poi a infliggere le decisioni e le politiche che sono derivate da questa ricerca. Come è fatta una ricerca in cui il ricercatore sia posizionato in mezzo alla società, no? È una nuova epistemologia, no? È una nuova modalità della conoscenza che ha implicazioni estremamente radicali, no? E come è fatto un centro di ricerca che non può erogare un questionario, no? Perché vuole mettere radicalmente in dubbio questa modalità della conoscenza che agisce nella separazione, no? Potremmo fare milioni di esempi di fronte a cui ci stiamo trovando, no? Adesso magari lascio la parola e poi magari ne riparliamo. Io per adesso pure non voglio aggiungere altro perché mi sembra che l'idea di cura tempo riportata proprio a quello che stiamo cercando di fare con il centro di ricerca è una domanda abbastanza completa e che risponde a un problema molto astratto, però in un modo autobiografico. E mi piace molto quello che hai detto, Sara. Non ce l'avevamo preparato, però bravo. Bellissimo. Dai. Ma... E invece con voi altri, con Luca Ross, mi piacerebbe ragionare più su quello di cui parlava Ross prima, cioè la traduzione e il trasloco delle istanze dalla realtà di movimento all'istituzione, no? Che poi è il grande tema, un po' è il tema di unirsi, comunicare, pianificare, e dall'altra parte è in che modo vogliamo fare pressione sulle istituzioni. Partiamo da Luca. Innanzitutto, cioè, secondo me c'è un po' un pregiudizio che abbiamo, che in cui anche io a volte mi riconosco, che è un po', diciamo, un vizio dell'abitudine di la fatica nel vedere delle forme di connessione, di organizzazione, di come si spiegano nella società in forme anche differenti, perché siamo abituati a concepire comunque i movimenti, le lotte, le mobilitazioni sociali in una forma ancora molto classica e molto legata anche forse a un immaginario, a un modo di fare. Cioè, secondo me la polemica tra Bifo e la risposta bellissima che secondo me che ha avuto di quella ragazza ricercatrice di cui adesso non ricordo il nome, era un po' questo, cioè era un po' guarda, smettetela di romperci le scatole voi gli anni 70 eccetera, non perché quella storia debba essere dimenticata e seppellita, ma perché oggi abbiamo bisogno probabilmente anche di guardare la realtà attorno a noi con delle lenti diverse, senza questo carico pregiudiziale. Io sono convinto che ci siano molteplici forme in cui le persone si organizzano da un punto di vista della comunicazione, da un punto di vista dell'autodifesa, da un punto di vista della tutela e anche della sperimentazione di forme di abitare, di fare impresa, di costruire socialità differenti, che probabilmente non combaciano tutte con una prospettiva anche culturale di trasformazione chiara e omogenea, in cui tutti si riconoscono in maniera differente, ma tutti più o meno si riconoscono allo stesso modo. Probabilmente questo manca, ma io non credo che non ci siano le forme, queste forme sperimentali. Il punto appunto è che manca una narrazione comune, manca una visione, una prospettiva, perché siamo invischiati in una crisi globale in cui è molto difficile trovare dei soggetti che si muovono nel panorama politico e siano in grado di indicare una prospettiva di transizione, come la vogliamo chiamare, di cambiamento che ha degli assi chiari, che ha un suo programma di realizzabilità. Cioè, questo è molto difficile trovarlo, ed è molto difficile che abbia le gambe. C'è invece una molteplicità di tentativi, sperimentazioni, di linguaggi anche molto confuse e con delle forme molto spurie che si manifesta, ma che a volte chi ha una storia anche di attivismo, di militanza, di organizzazione, di partecipazione, a volte fatica a vedere, perché le riconduce a degli schemi che probabilmente oggi andrebbero un attimo rivisti, andrebbero un attimo decostruiti. Io sono convinto di questo. Penso che invece il lavoro che si può fare è proprio quello che un po' diceva Salvatore prima, cioè cercare di lavorare sulla visione, anche su che tipo di attività scientifica, di attività tecnologica, di attività di riprogettazione dei sistemi, dei servizi, delle infrastrutture, dello spazio pubblico, della dimensione dell'abitare, della dimensione anche della produzione, anche diciamo dei beni materiali, eccetera. Siamo in grado di ricostruire, per forza di cose all'esterno da quella che per esempio oggi è il sistema della ricerca, diciamo, dell'università pubblica o del settore ricerca e sviluppo delle imprese private, che invece sono molto concentrate su un modello di innovazione che è di tipo incrementale, che è di tipo lineare, ed è palesemente in crisi, diciamo, in tutto il mondo. Diciamo, queste sono domande apertissime. Io non credo, cioè non ho la presunzione di rispondere, però quantomeno provare a farsi queste domande qua. Anche, diciamo, l'idea dei conflitti. Noi siamo abituati a pensare al conflitto, soprattutto in termini di conflitti di classe, e giustamente, ma oggi cioè il conflitto è qualcosa di trasversale, qualcosa che assume dei connotati a volte, diciamo, difficili da decifrare, dove dentro c'è appunto c'è l'etnia, la nazionalità, la localizzazione, l'esperienza, cioè siamo anche cioè diventa la cosa discutevo qualche giorno fa, e chiudo su questo con una battuta: è diventato difficile comunicare con le persone, è diventato difficile parlare, ma non perché non ci sono mezzi e strutture e forme, diciamo, per organizzare anche una comunicazione indipendente. Il problema è che manca proprio un alfabeto comune. Cioè, quando parli con le persone, a volte parli, hai difficoltà proprio sul significato delle parole, a comprendersi reciprocamente sul significato delle parole, e sul contesto in cui questo significato assume. E questa è una crisi di proprio che, se ho capito bene, anche Salvatore faceva riferimento a questo, proprio di carattere epistemologico e di paradigma, su cui non abbiamo ancora gli strumenti per intervenire. Questo non ci esime, ovviamente, dal provare, dal fare, dal costruire dei tentativi e dallo stare, diciamo, dentro i processi e cercare di indagarli, anche di ricostruire un nostro punto di vista, anche decostruire noi stessi dentro questi processi. Sì, è proprio una questione anche di, cioè, come hanno detto sia Ross che Salvatore, di riferimenti, no? Quindi sia riferimenti a livello politico in generale, sia punti di riferimento, sia questa questione semiotica di cui parlavi anche tu. Ross, tu come la vedi? Ti passo la parola. No, io diciamo, ovviamente, nel senso, più che una questione di linguaggio, alfabeto comune, cioè, tendo a ricondurla, come dire, a una questione di soggettività. E quando appunto Salvatore parla delle classificazioni molteplici o appunto delle quali ci sfugge in qualche modo diciamo, la nostra posizione, no? Rispetto a questo, secondo me è un tema legato alla nostra soggettività e alle nostre soggettività, perché probabilmente siamo in una fase ancora di grande transizione, nella quale queste soggettività probabilmente sono molteplici, sono nuove e appunto solo attraverso percorsi di ricerca collettivi e che quindi tengono conto di molteplici anche contributi da un punto di vista disciplinare e da un punto di vista appunto anche di caratteristiche umane e non umane differenti dei contesti, no? Cioè, possono aiutare ad orientarci. Però appunto proprio rispetto a questo, cioè io mi faccio una domanda e la faccio soprattutto agli altri e a voi, no? Perché quello che è riuscito a succedere negli Stati Uniti è legato al fatto che i soggetti direttamente colpiti in qualche modo da dei fatti sia contingenti che storici definitivamente hanno preso parola. Quindi rispetto a questa questione della soggettività o della classe, classificazione, come diceva Salvatore, sono molto, molto curiosa di capire se veramente cioè, qual è la nostra capacità di definire e ridefinire senza farci definire dai codici o dai dati che produciamo in quanto soggetti politici e sociali, perché questo secondo me è un punto fondamentale della questione rispetto delle forme di azione che noi in qualche modo possiamo immaginare e reimmaginare, perché appunto faccio questo. Ieri proprio Daniele Bucci mi raccontava di questo workshop, di questo percorso che stanno facendo Salvatore Oriana insieme ad altri, che si chiama Data Meditation, e mi ha molto, molto colpito ed è mi piacerebbe approfondire, perché l'idea, no, correggetemi ovviamente se sbaglio, di un percorso di consapevolezza anche della e delle proprie identità, del proprio ruolo nel mondo rispetto ai dati che produciamo e nei quali ci aggiriamo, sicuramente è un passo fondamentale, però appunto il tema è quanto poi noi riusciamo a definirci in autonomia insieme ad altri rispetto alla nostra condizione e alla nostra soggettività politica e sociale. Bellissimo. Questa è una domanda che mi affligge, ma proprio perché, per rispondere a Luca, col quale abbiamo condiviso esperienze sia novecentesche che post-novecentesche, anche se eravamo bambini, però credo che comunque condividiamo questi tumulti psicologici, sentimentali e politici interiori, e insieme agli altri legati al fatto di essere una generazione ancora tanto in transizione. Noi abbiamo conosciuto il mondo attraverso delle categorie interpretative del Novecento e a un certo punto ci hanno spalancato davanti il mondo nuovo. Quindi mi piacerebbe chiedervi quanto in qualche modo noi possiamo essere capaci di relazionarci e come questo alla nostra soggettività oggi, politica e non solo. Cioè abbiamo davanti un lavoro di traduzione. Siamo forse l'unica generazione che in questo momento lo può fare. Mm-hmm. Sono d'accordissimo con te, d'accordissimo. Aspetta, Oriana, vai. Ah no, scusate, no, perché purtroppo non abbiamo il video, quindi non sanno. Grazie, siamo stati bravissimi, secondo me, anche senza video, a darci la parola. Io volevo ringraziare tantissimo Rosanna per avere sia per l'interesse in Data Meditation, sia per aver messo sul tavolo un esempio, il primo esempio di come stiamo ristrutturando e portando nel mondo la versione ristrutturata del centro di ricerca che ancora non c'è. Ma in realtà proprio Data Meditation è il primo esperimento che facciamo, chiamandolo esplicitamente un rituale data driven, un rituale ancorato ai dati. Questa idea dei rituali è una delle cose che che stiamo coltivando insieme a non lo stiamo facendo da soli. Daniele, sono contentissima che l'hai anche nominato, è proprio una delle persone con cui stiamo mettendo la testa su questo progetto, su questa nuova vita del centro di ricerca che si chiamerà proprio Hershey Loves Data. Perché Hershey Loves Data? Ci avete chiesto sono state chieste tante cose, cioè come possiamo affrontare il nostro vivere, il posizionarci nel mondo oggi. Un primo elemento è che i dati non sono un fatto tecnico, ma sono un fatto esistenziale. lo abbiamo scritto su delle cartoline, lo abbiamo scritto in tanti articoli, lo diciamo continuamente, data are existential. Nel mondo di oggi, se non l'avevamo capito prima, il contatto con la pandemia, dove le statistiche dei dati entrano talmente nella vita che addirittura insomma si coniano termini per cui c'è l'infodemia prima della pandemia, e quindi addirittura l'informazione che lotta, fa gara con la biologia e determina tantissime cose personali, quindi sono stati rimodulati le nostre relazioni, adesso sono emersi i congiunti, possiamo entrare e uscire dalle case in base a quello che dicono i dati. Se non l'avevamo capito prima, che i dati non possono essere trattati come un fatto che qualcuno da qualche parte gestisce o ci legifera sopra, che sia lo Stato o sia Google, non riusciremo mai a vivere nella contemporaneità se finalmente i dati noi non li abbracciamo come un fatto essenziale. Mm-hmm. Abbracciarli proprio, farci l'amore bifo, ma noi dobbiamo iniziare a fare l'amore con questa dimensione esistenziale, lo stiamo facendo. Non apprezzo così tanto questo tentativo di polarizzazione, abbiamo bisogno di tanta dolcezza nel mondo di oggi, sia noi quarantenni sia più piccoli di noi, non abbiamo bisogno più, io almeno personalmente non sento più il bisogno di salire sul palco, di scioccare qualcuno e dire con delle parole ad effetto per suscitare una discussione. Mi piace moltissimo fare il workshop di data meditation insieme alle persone, perché siamo una generazione interessantissima, forse un po' sfigata, a cavallo tra il 900 e gli anni 2000, e siamo qui, siamo noi che ce la dobbiamo reinventare per forza. E la nostra sfida, quello che ci abbiamo davanti è capire come coevolverci insieme con i dati. Noi addirittura parliamo di necessità di nuove cosmologie, quando l'ha un po' introdotto già Salvatore, secondo me, prima. In questo mondo dove il nostro essere classe non riusciamo nemmeno a vederlo, abbiamo fatto anche tanti esperimenti attraverso mostre e installazioni, di cui una per esempio era un data god, un dio strano, molto popolare, molto che si prendeva molto poco sul serio, dove cercavamo di iniziare ad esplorare questi cieli, come sono fatti i nostri cieli. Tutto questo perché? Perché ci riporta di nuovo costantemente al nostro rapporto esistenziale con i dati. Dico solo un'altra parola, poi magari non voglio parlare troppo. Per esempio, data meditation ci sta appassionando tanto, lo faremo all'interno di una summer school olandese insieme a un network che probabilmente insomma fa anche parte di quest'area di mondo, Institute for Network Culture, per l'immaginazione, eccetera. E quindi effettivamente nel workshop perché è nata questa idea? In questa pandemia io purtroppo all'ospedale ho vissuto, noi non abbiamo la televisione, ho vissuto questa esperienza tremenda di dover avere a che fare con i dati che mi dava la televisione, e io l'ho stordita, mi sono sentita molto molto bombardata. Allora, per esempio, partendo da questa esperienza fortissima dei dati della nostra vita, ci siamo chiesti: ma chi è che ci ha proposto i dati come un modo per riuscire a raggiungere un po' di consapevolezza in più sul nostro mondo, invece che di essere manipolati, questo e quest'altro? E allora ci siamo rivolti alla cosa che si fa più anticamente, questa pratica antichissima della meditazione. Intorno ai dati, poi, perché sia tuo, perché tu ti ci possa aggregare intorno, ma non tanto aggregare, proprio riunire intorno ai dati, devono poter essere tuoi. Quindi partiremo da un discorso sui dati che ha a che fare con le identità delle persone, quindi non come le possono, con l'autobiografia, i dati come spazio della tua autobiografia e della tua espressione. È di questo che stiamo cercando di parlare. Quando si parla dello spazio dell'immaginazione sociale, qua ce n'è una prateria, un oceano, i dati vengono sempre nell'immaginario di tutti, non è un fatto che è... Lo vediamo costantemente in tutti i workshop che facciamo. È difficilissimo riuscire ad andare al di là dei dati, ai dati, anche in contesti di movimento, di persone che fanno queste cose, che hanno un linguaggio, tra virgolette, che per le cose del Novecento, che sia il welfare, la scuola o il gender, hanno un vocabolario, quando si parla dei dati siamo così intorno, immersi in un ambiente che va da tutti i servizi a cui accediamo, ai social network, a quello che ci pare, che sono di servizio e fanno parte di una cultura e di un ambiente estrattivo, che riuscire a parlare di dati come forma di espressione, di bene comune, di un luogo per le nostre autobiografie con cui ci coevolviamo, diventa difficilissimo. Quindi lì che vedo la prateria dove possiamo pascolare e scatenarci. Io aggiungo una cosa brevissima. Vai, vai. Perché mi interessa. Ad oggi parliamo di dati, di algoritmi, solo in modo difensivo, quindi in termini di privacy, di difesa dal controllo, no? E questo per me è un errore, no? Perché parlando non riusciamo, proprio non abbiamo il linguaggio per parlare che stava dicendo Oriana, no? Quindi c'è bisogno di una espansione, no? E questo modo di trattare i dati come un elemento esistenziale delle persone va proprio in questa direzione, no? Quando in una delle nostre pazzie ci siamo inventati letterario, quello della autobiografia algoritmica, state attenti, auto, no? Non biografia algoritmica, in modo che l'intelligenza artificiale ti scrive lando un testo, no? Miravamo proprio a questa cosa che diceva Oriana, del creare nuove. Questa nuova cosmologia, l'intelligenza artificiale, l'algoritmo, diventa una parte di noi, no? Proprio come noi già adesso non siamo una singola identità, no? A parte il discorso digitale, c'è anche il discorso biologico, no? Io sono un grande appassionato del macrobioma, no? E quindi chi si occupa di microbiota, occupa di questa cosa, sa perfettamente che noi nel nostro corpo abbiamo tantissimo DNA non umano, no? E che è necessario, no? Per la nostra sopravvivenza. Noi già siamo il frutto di un'alleanza tra soggetti diversi, no? E questi soggetti diversi, perché ci sono così tanti neuroni, no? Determinazioni neuronali nel nostro stomaco, no? Perché lì è la sede del microbioma, della nostra parte non umana preponderante, no? Ecco, quindi questa nuova alleanza con il non umano è necessaria. Anche perché ricordiamoci sempre che stanno arrivando i problemi ecosistemici. E la pandemia è stato il primo problema ecosistemico, E i problemi ecosistemici non si risolvono da soli, no? E addirittura non bastano i nostri sensi, no? Perché per accorgermi che c'è il cambiamento climatico, non mi basta sentire sulla pelle dove io sto che c'è. Più caldo o più freddo, mi serve per poter avere esperienza del cambiamento climatico, mi servono enormi quantità e qualità di dati differenti e io come essere umano non ho la capacità di elaborare e avere a che fare con tutti questi dati e trasformarli in una sensazione, no? Una cosa che ha senso per me, no? E quindi questa nuova alleanza è necessaria anche per questo, no? Quindi ecco, quando parliamo di tutte queste cose, adottando il punto di vista difensivo, quello della privacy o della difesa dal controllo, ci dobbiamo anche accorgere che stiamo usando un linguaggio e un immaginario che è profondamente insufficiente. Certo, allora intanto vi ringrazio tutti perché è stata una conversazione che ha mollato lì sul tavolo, ha buttato nel calderone ancora più input e in realtà io non sono diciamo, preoccupato da questo, ma anzi non vedo l'ora di poi risentire e elaborare quello che è stato detto perché poi la prossima puntata sarà la penultima e proseguiremo sicuramente con altri ospiti il discorso che avete fatto voi e che ancora prima di voi hanno iniziato, cioè abbiamo iniziato io e Virginia, ma poi ci hanno aiutato a razionalizzare tutti gli ospiti e per ultimi Nicola Capone e Cristina Alga che immagino qua tutti conosciamo. Quindi intanto grazie per questo. Abbiamo sforato di un quarto d'ora, ma per fortuna non abbiamo rubato, di solito rubo sempre del tempo ai nostri amici di Napoli, ma stavolta mi hanno detto che non vanno in onda, quindi siamo ancora, diciamo, è tutto ancora regolare. Prima di salutarvi, magari un giro veloce con un'ultima domanda. Vi aspettate possa succedere nel brevissimo periodo o anzi cosa vi auspicate? Ecco, qual è secondo voi, è proprio molto personale questa, quindi anche Salvatore Oriana scendete pure, cosa vi auspicate possa succedere dal punto di vista invece politico, proprio strettamente politico, quindi dall'alto, nei prossimi mesi? Cioè, qual è secondo voi lo so che non è una domanda semplice, però qual è che secondo voi qualcosa che possa sbloccare un po' la situazione? E chi vi auspicate, insomma, a partire da Luca? Ma non saprei, mi basterebbe, diciamo, mi farebbe piacere, mi basterebbe se alcune delle, dei propositi che anche questo governo No. Niente. Sta lottando e sta, diciamo, faticando a tirare avanti. E altro, diciamo, non ho auspici più ambiziosi di questo per il momento. Speriamo con quello che sta succedendo nel mondo di vedere anche qui, diciamo, qualcosa come una sollevazione come quella che sta avvenendo negli Stati Uniti, che probabilmente darebbe un respiro diverso anche a questi desideri. Aspetta, modifico, scusa Ross, ti modifico velocemente allora la domanda, in realtà sulla base, cioè costruisco un po' come i giochi che noi facevamo da bambini, costruisco sulla risposta di Luca. Secondo te, e quindi cambio la domanda e poi vediamo se riesco a cambiarla anche per Oriana e Salvatore. Secondo te, un sollevamento insomma dal basso è in Italia per quello che è la cultura italiana, per quella che è insomma anche la composizione un po' diciamo, pubblico, dell'opinione pubblica italiana, è fattibile oppure no? Secondo te, non so, sono domande adesso finali, quindi molto anche soggettive, insomma. Guarda, ti rispondo proprio di istinto, come io penso che in questo momento sia molto più interessante e importante diciamo, fare un lavoro di rete e di cura tra realtà che non so, cioè, così, cioè, diciamo, di così. Specificamente di movimento, esplicitamente politiche e il mondo in qualche modo della ricerca, della cooperazione. Cioè, secondo me, io credo che sia molto importante, come dire, che prima, si lavori sulla ricostruzione, cioè proprio di un ecosistema in qualche modo, c'è bisogno di case, c'è bisogno di case, di rifugi, c'è bisogno di un tessuto. Persa, via, sconnessa. Tranquilla, Mi ero disconnessa. tranquilla, prosegui, prosegui. Sì, di un tessuto, diciamo, di persone che possano mettere a disposizione le proprie competenze, i propri luoghi, spazi fisici, diciamo, per poter fronteggiare, diciamo, una versione che secondo me proprio personalissimamente possa essere italiana in qualche modo, no? Di una sollevazione, diciamo, come la chiami, credo proprio antropologicamente per come mi immagino che si possa dare in Italia. Quindi secondo me c'è bisogno di una riconnessione, diciamo. No, non credo che diciamo, un'esperienza come quella che in questo momento c'è negli Stati Uniti possa vivere, diciamo, in mancanza in qualche modo di riconnessioni anche di un tessuto, cioè, di soggetti che formano un tessuto di cura, diciamo, dal basso, ecco. No, sei stata molto chiara. Allora passo all'ultima domanda a Oriana e Salvatore. Allora, che intanto parlando proprio di cura, che era quello che volevo chiedere all'inizio, poi mi sono perso totalmente via. La discussione ha preso un'altra piega, ma va bene così perché mi piacciono molto queste discussioni che partono con delle premesse e poi dopo si incuneano in quello che anche viene fuori dal flusso, insomma. Proprio sulla cura, proprio molto veloce, Oriana e Salvatore, vi chiedo. Allora, anche in maniera un po' scanzonata, qual è secondo voi il massimo, diciamo, il miglior consiglio, ecco, per poter curare se stessi? Fantastico. Posso azzardare? Vai! Allora, la cura non è la terapia. La terapia è qualcosa che è amministrato, no? Somministrato. Invece la cura è qualcosa per cui servono almeno due persone, no? Serve la relazione. Quindi, per prendersi cura, è fondamentale, la relazione. E per la relazione è fondamentale riconoscersi, no? Il potersi riconoscere è il fondamento della relazione, no? E quindi ecco, faccio eco a quello che diceva Rosanna, no? E perché questa parte è del tutto fondamentale. E ci aggiungo un termine che è quello di agopuntura. intervengono, no? Non so che mi state sentendo perché ho sentito. Sì, sì. mi sono perso in realtà io un attimo, nel senso che mi è andato via per qualche secondo. Lo so, sono arrivato fino a. Aggiungo il termine ago.it, poi dopo. Agopuntura, nel senso di una cura basata sulla relazione e sulla conoscenza, no? La capacità di capire i nostri ecosistemi e sulla possibilità di coesistenza, no? Perché una cosa che ecco, io finisco il mio intervento citando una cosa che diceva Gilles Clément quando parla del suo terzo paesaggio, no? Quindi il paesaggio, l'ambiente naturale che è composto dalle erbacce spontanee, no? Che crescono e ricrescono. Ed è bellissimo che Gilles Clément, quando parla del terzo paesaggio, non alluda minimamente mai alla fine della figura del giardiniere, no? È solo che il suo giardiniere non usa come strumenti la pala, il rastrello, la vanga, no? Il giardiniere del terzo paesaggio, quindi questo giardiniere è un po' particolare che è così intento al tema della a prendersi cura del tema della coesistenza, no? Come strumenti questo tipo di giardiniere usa il vento e la conoscenza, no? Ecco, secondo me questa è una chiave di lettura che possiamo usare. Quindi quando facciamo la nostra attività politica, la nostra attività di comunicazione, cerchiamo di non usare la vanga e il rastrello, cerchiamo di usare il vento e la conoscenza. Perfetto, grazie. Allora, Oriana, non so se tu vuoi dire qualcosa, ma mi hanno appena detto in realtà che ci sono gli studenti di Napoli, che io pensavo non ci fossero. No, no, quindi, lasciamo tutto lo spazio agli studenti quindi, di Napoli. Figurati, non c'è problema, anzi, proprio prendiamoci cura degli studenti di Napoli e esatto. Lasciamoli parlare. Ok, allora vi saluto tutti, scusate, stavo scrivendo appunto che adesso stavo salutando, vi ringrazio davvero di cuore, è stata una conversazione ricca come al solito, e di cui appunto, come ho detto anche prima, sono molto contento. Adesso mi toccherà tutto un po' riascoltarmi e sbobinarmela, così almeno proseguo anche i miei ragionamenti personali. State bene a Trento, state bene a Napoli, state bene a Pisa, Ross, non so dove finirai poi, perché non ricordo. Sentiamoci, stiamo connessi, cioè stiamo anche soli, ma stiamo anche connessi. Spero di vedervi dal vivo quanto prima, o qua a Milano, dove mi trovate spesso a Macao, oppure in giro per scendere. Io sono andato via. Belli, a presto. A presto. Ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie. Ciao. Ciao. Grazie. Ciao. Allora, prima di salutare, velocissimamente ringrazio Virginia che mi ha abbandonato, non so se è andata. Ringrazio i gatti Virginia che mi hanno mangiato la pianina che ho cucinato, che potete vedere nelle storie Instagram di Virginia, credo. E passo la parola, come ho appena detto, agli studenti di Napoli. Grazie ancora per essere stati con noi su Notizie Virali, ma soprattutto il pezzo che stiamo ascoltando ora, credo, il pezzo che stiamo ascoltando ora, sì, è proprio lui, un pezzo dell'EP Survival. Ricordo che poi metterò tutto linkato nella descrizione di questo podcast e i cui proventi finiscono a delle a un'associazione che si occupa di cercare di limitare la violenza e l'oppressione e il controllo della polizia a favore di invece pratiche comunitarie di cura e di diciamo salvaguardia reciproca. Un abbraccio a tutti, questa qua era una notizia virale, puntata numero 14 con Fred, che sono io, e Virginia. Ciao, sono Virginia! Alla prossima!